Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con la stampa periodica italiana e straniera in edicola. Allora, voglio cominciare con una notizia positiva, una piccola notizia positiva, che poi in realtà insieme ad Anita Panizza e Alessandro Balì abbiamo pensato di collegare a tutto un altro servizio di altro news magazine. Ma la notizia positiva innanzitutto: il matrimonio allunga la vita, anzi meglio, avere un marito allunga la vita, quindi la notizia è soprattutto dedicata alle ascoltatrici. Chi lo dice? Lo dice l'Università di Louisville, che appunto ha condotto uno studio e è arrivata alla conclusione che vivere da single, quantomeno per le donne, comporta una riduzione nell'aspettativa di vita. Quindi il marito, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, immagino che più di un'ascoltatrice abbia delle perplessità, il marito certo darà da fare, darà delle preoccupazioni, ma potrebbe avere un effetto positivo invece sulla longevità. Da dove ho tratto questa notizia, questa, se volete, questa puntura di spillo, davvero? Da Vanity Fair di questa settimana. Una ricerca, dice Stefania Mascetti, smonta il mito della libertà dei single: senza un compagno le donne vivono in media dai 7 addirittura ai 15 anni di meno. La vita da single, leggo sempre da questo breve articolo di Stefania Mascetti, sinonimo di libertà e indipendenza? Probabilmente sì, ma a che prezzo? La domanda emerge da uno studio dell'Università di Louisville, secondo il quale le persone che non hanno trovato l'anima gemella rischiano di avere più problemi di salute. E poi ci sono altre previsioni funeste che però in questo momento non mi va davvero di condividere con voi. Vi dico che però, proseguendo la lettura dell'articolo, la cosa funziona molto bene per le donne, quindi avere un marito allunga sicuramente la vita, questo è il titolo infatti scelto anche da Vanity Fair, ma anche per gli uomini avere una moglie, qui mi immagino l'ironia degli ascoltatori, invece avere una moglie effettivamente avrebbe un effetto positivo anche per il sesso maschile. Dicevo tutto questo per passare a un altro servizio ben più ampio, che riguarda invece i costi del matrimonio. Un servizio che è apparso sull'Espresso di questa settimana: il gran business del sì. Ci si sposa di meno, ma si spende sempre di più per abiti, festa e luna di miele. Ultime notizie da un rito che non conosce crisi, così viene presentato sull'Espresso di questa settimana il lavoro di Veronica Olivieri. Naturalmente questo è stato un anno in cui abbiamo visto matrimoni anche molto importanti di coppie celebri, ma pare che appunto anche in Italia, anche nell'ambito del privato di personaggi non famosi, sia in crescita la voglia di fare del giorno del matrimonio un giorno particolarmente ricco, particolarmente pieno di cose da fare. Leggo qualche passaggio da questo articolo di Veronica Olivieri: mentre diminuiscono le coppie che decidono di sposarsi e il matrimonio dura sempre meno, cresce la febbre da nozze. Secondo l'Istat, nel 2010 i matrimoni sono stati poco più di 217.000, 30.000 in meno rispetto a 2 anni prima. Aumentano separazioni e divorzi: nel 2009 su 1.000 matrimoni ce ne sono stati rispettivamente 297, 297 separazioni, 181 divorzi. E fin qui diciamo le cattive notizie. Ma chi si sposa lo fa in pompa magna, trasformando il giorno fatidico in un happening in cui il sì lo voglio è solo un momento di un evento più grande preparato molto tempo prima. E allora andiamo un po' su qualche dato economico che corrobora questa tesi. In Italia oggi ci sono quasi 150 fiere dedicate alle nozze. Oltre agli abiti si appunto esaminano anche gli accessori, i fiori, le bomboniere, la torta, la luna di miele. Proliferano naturalmente le guide, guide di tutti i tipi, ci sono delle riviste specializzate, come sappiamo. Non mancano anche, più di recente, canali e trasmissioni TV dedicati al grande giorno. Forse avete avuto occasione di vedere Wedding TV, ma anche dei singoli reality appunto dedicati al tema del matrimonio. È molto diffuso, cioè molto diffuso oltreoceano, ma si sta diffondendo anche qui da noi, il mestiere del wedding planner, cioè l'organizzatore di matrimoni. Pare che Nel nostro paese, come riferiscono appunto, riferisce Stefania Arrigoni, che presiede l'associazione dei wedding planners, nel nostro paese questa professione sia davvero sbarcata solo dal 2007. Ci fu in quel momento il film di Jennifer Lopez, forse qualcuno lo ricorda, Prima o poi mi sposo, appunto dedicato a questa figura del wedding planner. Questi sono dei professionisti in realtà che combinano, appunto, si occupano di tutti gli aspetti del matrimonio, non organizzano, precisa l'Espresso, solo matrimoni da 100.000 euro come si vede magari nelle trasmissioni televisive, ma il budget medio in realtà è sui 25.000 euro e la domanda, secondo appunto l'associazione, sta crescendo proprio tra le coppie di fascia media. Qualche dato: quanto spendiamo in media, quanto spendono, quanto hanno speso, abbiamo speso per sposarci? Si calcola che alla fine di quest'anno si arriverà a una cifra tra i 33.000 e i 55.000 euro di media per le coppie che hanno deciso di sposarsi. Significa che saremo cresciuti dal 2 al 5% rispetto a quanto era stato speso l'anno prima. Moltiplicando allora un budget minimo dei 30.000 euro per 217.000 matrimoni, si ottiene il giro d'affari, si parla di 7 miliardi di euro in un anno, a cui poi aggiungere altre voci come i regali e i vestiti degli invitati. Allora, ancora un istante per restare su una delle mode più nuove che viene proprio segnalata dall'Espresso in un box che accompagna questo articolo. Qualche coppia, in considerazione delle cifre che vi ho esposto e che non sono davvero di poco momento, ha pensato di ricorrere a degli sponsor. Come cercare uno sponsor per sostenere il proprio matrimonio, escludendo di essere una coppia di reali o di personaggi dello spettacolo? Lo spiega appunto l'Espresso. Se il budget è limitato per le nozze, l'ultima tendenza è quella di sposarsi con gli sponsor. Il fenomeno è nato negli Stati Uniti, manco a dirlo, aggiungiamo noi, si è diffuso in Francia e ha approdato da qualche mese anche in Italia. Coppie con tanta fantasia ma a corto di budget creano un blog. Un blog è questa pagina internet dove uno può pubblicare i propri pensieri, le proprie foto, insomma una sorta di album in pubblico, di diario in pubblico. Quindi si crea questo blog su internet in cui le coppie offrono a fioristi, negozi di abiti, fornitori di catering, degli spazi pubblicitari gratuiti per modo di dire, perché appunto questi spazi vengono offerti in cambio di qualche sconto appunto in vista del matrimonio. E la cosa funziona, perché qui si racconta la storia di due ragazzi, Elisa e Walt, che due ragazzi giovani, casa appena acquistata, con prole, pochi soldi, e si sono sposati il 18 giugno scorso. In meno di 6 mesi hanno organizzato una cerimonia con 60 invitati, spendendo circa 3.000 euro, che è molto meno di quanto preventivato in media. Poi loro avevano organizzato una pagina su Facebook, noto social network appunto. Altri stanno organizzando appunto dei blog veri e propri, stimano un'altra coppia che viene raggiunta da Olivieri sull'Espresso, dice che confida di avere un risparmio almeno del 45% proprio facendo uso di queste promozioni mirate per i loro fornitori. E allora restiamo ancora per qualche momento sull'Espresso prima di fermarci per le informazioni sul traffico. Parlando di spese, appunto, una piccola ma ohimè ricorrente cosa, specialmente di questi tempi, in questi tempi in cui si parla di manovra, ci sono dei sacrifici. Allora, nelle varie polemiche di queste settimane ci sono i costi della politica, un'ennesima riprova di questi costi decisamente elevati sta nelle pagine iniziali dell'Espresso di questa settimana. Hanno calcolato che i giorni effettivamente lavorati dai senatori, i soli senatori, quindi dall'inizio dell'anno a oggi, siano in tutto 62. Nello stesso periodo un normale lavoratore, non contando sabati, domeniche e altri giorni festivi, è stato occupato per 160 giorni, quindi più del doppio. Il dato si è ottenuto trasformando le ore di sedute di aula e di commissione in giornate lavorative di 8 ore, si arriva appunto a 62 giorni lavorati. Fino al 31 agosto, in 8 mesi, i senatori hanno riscosso 118.288 euro, immagino a testa, quindi un giorno di lavoro del senatore è costato 1.907 euro. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Naturalmente oggi, 11 settembre, 10 anni dalle Torri Gemelle, praticamente tutti i settimanali che trovate in edicola, italiani ma anche stranieri, se volete cercarli, hanno ricordi, testimonianze, analisi per questa ricorrenza. Come sapete, Radio 24 ha già nei giorni scorsi cominciato a raccontare l'11 settembre. C'è uno speciale dedicato all'11 settembre sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com, con tra l'altro anche le voci che all'epoca Radio 24, che fu tra le primissime fonti informative proprio sull'11 settembre, mandò in onda. E già dai giorni scorsi chi segue questa radio sa che abbiamo ricordato cosa è accaduto 10 anni fa, se ne è parlato anche proprio prima di questa trasmissione, ne parleremo ancora anche domani, anche in prima edizione, già dalle 6 del mattino. Vedremo come è stata vissuta la giornata di questo decennio, di questo decennale, di un momento che davvero ha cambiato la nostra storia per molti versi. Io vi segnalo solo, ma temo davvero di far torto poi a qualcuno, vi segnalo solo un bello speciale di Famiglia Cristiana, è molto impostato naturalmente sul tema della pace e delle guerre post 11 settembre. Tra l'altro, sfogliandolo, si apprende che metà degli attuali rifugiati nel mondo, parliamo di 4 milioni e 700 mila persone, sono cittadini di paesi in cui si sono combattute guerre intervenute dopo l'11 settembre, quindi l'Afghanistan e l'Iraq sono i paesi che più hanno pagato questo tributo al clima che si è creato proprio dopo l'11 settembre, a causa dell'11 settembre. Ma abbiamo trovato su 7 una rassegna di fotografie molto ampia, naturalmente l'Espresso, naturalmente Panorama, giornali femminili, le riviste femminili ugualmente hanno dedicato, ricordato il decennale dell'11 settembre. E allora, visto che parliamo di una vicenda, abbiamo così parlato di questa vicenda mondiale, di questa vicenda che ha cambiato davvero il mondo, proviamo a cambiare un attimo registro, ci appoggiamo davvero in questo caso a Focus, voi sapete è un mensile, ha provato a fare un gioco numerico: se il mondo fosse un villaggio di 100 persone, come sarebbe composto, cioè quali sarebbero le varie composizioni percentuali su queste 100 persone. Allora, innanzitutto ci sarebbero 70 adulti e 30 bambini, perché così è divisa la popolazione mondiale, e il denaro, diciamo buona parte del denaro, il 59%, sarebbe in mano a 6 persone, 20 persone avrebbero una piccola parte del denaro complessivamente circolante nel villaggio, solo il 2%, e poi appunto 74 ne avrebbero decisamente meno. Come sarebbero le nazionalità? Allora, se fossimo in 100 su tutta la Terra, 12 di noi sarebbero europei, 61 asiatici, 13 africani, 13 americani e un abitante dell'Oceania. Interessante anche sapere che, ad esempio, l'elettricità ce l'avremo solo in 24, gli altri dovrebbero farne a meno, e il computer sarebbe davvero un privilegio per pochissimi. Si calcola che appunto in un mondo composto da sole 100 persone, 7 avrebbero il computer, 93 ne farebbero invece a meno. Questa citazione del computer si presta molto bene a un servizio che sta su un Nouvel Observateur settimanale francese e che parla della moda di Twitter. Twitter è un altro social network, probabilmente meno noto di Facebook, ma pare che in Francia stia diventando davvero di moda e stia dilagando. Quindi il settimanale Nouvel Observateur, nella sezione che è proprio intitolata La nostra epoca, cioè come noi qui chiameremo i tempi nostri, insomma, parla di questa diffusione di Twitter, spiegando anche che appunto in televisione, nelle serate alla pausa caffè, è impossibile sfuggire a Twitter, Twitter di qui, Twitter di là, si scrive proprio, viene proprio descritto così per dire che c'è questa moda. Ora, Twitter, per chi non lo sapesse, è un social network che obbliga a stare in frasi molto corte e serve più che altro a segnalare a comunità incrociate manciate di utenti delle cose che vengono trovate sui giornali, vengono sentite alla radio, vengono lette su internet e appunto vengono poi rinviate tra i vari partecipanti a Twitter. È gratuito iscriversi così come per Facebook, ma appunto sta avendo una grande diffusione e in realtà deve gran parte della sua notorietà all'uso che ne fanno spesso le frange dissidenti dei regimi totalitari, gli oppositori, per cercare di far passare le informazioni evitando appunto le censure. Nouvelle Observateur però, per venire incontro anche ai suoi lettori, mette poi tutta una serie di vocaboli dedicati che bisogna un po', con cui bisogna un po' familiarizzare se si utilizza questo particolare social network, appunto Twitter. Letteralmente si parla di tweet, cioè di cinguetti, proprio perché si usano delle frasi molto brevi. Ecco, io adesso non sono in grado di, su due piedi, di farvi il valore a base 100 così come lo proponeva Focus, ma c'è un altro dato un po' preoccupante che ho visto su Famiglia Cristiana: gli analfabeti in Italia. Allora, gli analfabeti nel senso gente che non sa leggere e scrivere sono in realtà molto pochi. Abbiamo gli ultimi dati, ci segnala il servizio prodotto da Elisa Chiari, gli ultimi dati sono quelli stabili, sono quelli relativi al censimento del 2001. Però i veri e propri analfabeti erano calcolati nell'1,5% degli italiani, farebbero 780.000 persone circa. Poi ci sono comunque 5 milioni di persone che non hanno un titolo di studio, ma qui precisa appunto la professoressa De Fort, che viene intervistata da Elisa Chiari, si tratta anche di persone che stanno ancora in età da scuola dell'obbligo, quindi non saranno presto più analfabeti. E il problema invece è l'analfabetismo cosiddetto funzionale, cioè ma noi capiamo sempre quello che leggiamo, quello che sentiamo, quello con cui entriamo in contatto? Ecco, pare proprio di no, ma per una percentuale molto molto ampia, perché dice appunto, spiegano appunto su Famiglia Cristiana, significa che uno può essere capace di leggere un testo, però magari non lo capisce. Una ricerca recente ha dimostrato che la situazione italiana sarebbe abbastanza grave. Solo il 20% circa di noi è fornito degli strumenti culturali sufficienti per orientarsi nella società contemporanea. In pratica solo un italiano su cinque è in grado di capire completamente quello che sta leggendo, quello che sta sentendo. E la situazione è aggravata dal fatto che queste capacità limitate sono poi presenti anche tra i giovani. Secondo un dato di Tullio De Mauro, che viene citato appunto in queste pagine, circa un terzo dell'attuale popolazione italiana adulta è consapevole dell'esistenza di norme e istituzioni che tutelano diritti e beni e ha strumenti per fruire dei servizi. Quindi un italiano su tre, ma gli altri appunto due italiani su tre non sono completamente in grado di comprendere le cose che pure li riguardano. Questa come ultima segnalazione, perché Anita Panizza e Mauro De Angeli dall'altra parte del vetro mi fanno cenno che il tempo per questa puntata si è concluso. Allora io naturalmente ringrazio loro, ringrazio anche Alessandro Balia che ha debuttato nell'aiutarci a preparare questo programma. Vi ricordo che se volete scriverci abbiamo una casella postale: Magazine 24, Magazine 24, @radio24.it. Grazie e buona domenica a tutti.